Ngamba kutambira tono tambira panze. Tono tambira panze. DJ Guveya tora mixa uno tambira panze. Tono tambira panze. DJ Guveya tora mixa uno ritira panze. Tono tambira panze. Chomza kitoko mama na tori kutambira panze. Tambira panze. Tambira panze.